scende con fervore, o Sailor Moon. Ma più non risplende se la luna lo nasconde, Sailor Moon. In quel cielo nero senti il gelo del mistero, o Sailor Moon. Sailor Moon. Forse stai sognando tutto quanto dolce, Sailor Moon. Cielo blu, forse nei tuoi sogni lo vedrai, e allora sai, ti sveglierai. Sailor Moon è il mistero dei sogni. Ehi, il cavallo galoppa e va via. Ehi, si rifugia brillante nella fantasia. Forse nei tuoi sogni lo vedrai, e allora sai, ti sveglierai. Sailor Moon è il mistero dei sogni. Ti accarezza il sole che risplende con fervore, oh Sailor Moon. Ma c'è qualcos'altro oltre al sole lassù in alto, Sailor Moon.